noi abbiamo due tori scatenati che scalpitano per entrare in campo. Voi avete chiesto di loro e ora li avrete. Eccoli là! Tutti convocati, di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. E Giorgio De Luca, il nostro autore, e Gianmarco Ferronato in regia, e Pierluigi Pardo oggi qui con me. Buongiorno. Come va? Come va? Molto bene, lei? Bene, bene. No, bella mattinata, bella mattinata, bella mattinata. Sì, intanto sì. Stasera vai a Bologna. Preparato Bologna un po' la partita. Per questo anche anticipo. Lunedì dormo poco, fra lunedì e martedì. Come è andato di chitarra? Bene, molto bene. Divertente, no? Divertente, buono, tutto a posto. Insomma. Io voglio farti molto bene. Posso farti sentire una cosa? Poi parliamo sì. Anche di, ovviamente, di resto, però c'è una cosa che ci ha intrigati da morire. Allora, telecronaca di Juve Stabia Trapani Serie C. Ti faccio sentire una cosa. Se non erro, ricordo che si possono effettuare. Abbiamo un problema. Si possono effettuare 5 sostituzioni. Quindi diciamo che si possono effettuare 5 le sostituzioni. Abbiamo un problema con la cuffia. Le cuffie non. Adesso tutto regolare, chiedo scusa, quindi 5 le sostituzioni che possono effettuare i due mister. Non so come sai il nome, io lo abbraccio idealmente, perché no, la diretta è diretta, quindi vabbè. Mai capitato? Effettuare. Ma io una volta devo dire fuga. Diretta su, credo, su Canale 5, fra l'altro, e ho detto un'altra parola, cioè una I invece di una O, quindi puoi immaginare, no, può succedere, no, è abbastanza incredibile. Fettuere, fa abbastanza ridere. Però, sangue freddo, sì, cose che capitano, sì, il bello della diretta, sì. Quante ne diciamo noi, anche a tutti i convocati. Ma poi guarda, non c'è, io sono dell'idea, ma proprio anche in generale, che poi uno dice scusate. È come se il problema delle cuffie faceva un po' ridere. Però lì, quella magari col tempo la prendi. Se c'è un problema, fa un errore. Effettuiamo un'anticipazione. Anzi, due. Sì. Posso effettuare? Effettuo. Allora, prima anticipazione. Giovedì saremo a Genova, Salone Nautico. Io vado, tu no. Io ti do buca lì, ma non per cattiveria. Vado a Bari. Una bellissima, strano, iniziativa. Mai dato più buche te di. Vabbè, non è vero, non volevo darti buca. Poi sai che io amo il Salone Nautico tantissimo. Sì, ma la. Amo sia il Nautico che il Salone che Genova. Quindi proprio per me è un dolore. Però anche bene. La seconda anticipazione. La seconda invece ci sono. La seconda ci sei. Ci sono. Perché dovevamo andare venerdì. Però venerdì stiamo qui perché viene qui con noi. Sarà posata su questo tavolo. Il via Monterosa, The Champions, il porta ombrelli, la coppa dalle grandi orecchie, il sogno di tutti, ce la portano Kivu e Cafu. Mica è la male, coppa più bella di tutte. Per me, anche forse per me. Il bestemmio è più bella come coppa, parlo. Sì, è più bella, è più bella della Coppa del Mondo. Della Coppa del Mondo. Ma non è un fatto di estetica. Tra l'altro, io l'ho intervistato, credo, per lo Sciagurato Egidio, grande programma del mitico Borrao. Una decina di anni fa avevo fatto un'intervista allo scultore che abitava in via Stendhal o qualcosa del genere a Milano, allo scultore che aveva praticamente costruito, aveva immaginato e poi reso un'opera straordinaria, la Coppa del Mondo, quindi aveva raccontato tutto, insomma, il senso profondo che c'era dietro. E la Coppa del Mondo ovviamente ha un valore enorme, appunto disegnata da un italiano, ma la Champions ha un senso di potenza. Chissà di se grandezza. Andrea Mandorlini è d'accordo. Ciao mister. Ciao. Buongiorno a tutti. È d'accordo con Pardo? Sì, è la più bella di tutte. Sì, bellissima. Sì, indubbiamente. Gazzaniga, ecco, infatti Gazzaniga, l'abbiamo intervistato che era, tutti, che era noi, scomparso. Tutti noi che facciamo questo mestiere, sì, l'abbiamo Gazzaniga intervistato scomparso, almeno scomparso una volta un anno fa, creatore della Coppa del Mondo FIFA, della Supercoppa Europea e dell'Europa League, che è la Coppa UEFA. È bella pure la Coppa UEFA, Sì, non male. Coppa UEFA è bella. Senti, ma con Andrea Mandorlini non parliamo di estetiche, di gioielleria, parliamo di calcio, che dici? Vai. Allora Andrea, ti faccio sentire, sì, giusto come incipit, Spalletti che parla di Perisic e Icardi e dice piano, voliamo bassi. Per tutta la settimana si è si è continuato a soffiargli nelle spalle sia a Icardi che a Perisic, si sono mandati talmente in là che poi se si continua in questa maniera si rischia che quando si voltano poi non possiamo più trovarli per giocargli palla addosso, perché ce l'avete portati talmente distanti. Noi se ne ha bisogno dentro la squadra di questi calciatori qui. Allora, Andrea Mandorlini, cosa ne pensi dell'Inter? A me piace, e mi sembra una cosa interessante questa. Beh, Inter, insomma, innanzitutto fa risultato importante, quindi ti permette di lavorare bene, anche se Luciano non è contento che magari qualcuno viene portato un po' sopra le righe, però insomma sono giocatori importanti e adesso che lo stanno dimostrando, soprattutto Perisic, mi sembra anche normale, insomma, fare complimenti, e magari Luciano ha un po' paura di questo, ma l'Inter piace, e poi un po' fortunata e non guasta mai, perché insomma, quanto, siamo sempre qua. Quanto è distante mister dalle altre due? Poi ovviamente ci sono Milan, Roma, Lazio, eccetera, sì, però no, insomma, ma quest'anno può vincerlo? No. Vabbè, può vincerlo? Bah, insomma, non lo so, mi piacerebbe, però ancora un po' di distanza rimane da due. Mai dire mai, quindi non lo so. L'entusiasmo, i risultati ti possono portare a fare cose. Ricordo anche ai miei tempi, quando partivo fortissimo, insomma, l'anno dello scudetto, e poi sempre più con consapevolezza dei propri mezzi, e poi fare cose che in questo momento sembrano difficili da portare a termine. Quindi è ancora, siamo leggermente un pochettino distanti, però nel calcio mai dire mai. Però non, ieri facevamo questo discorso con Pierluigi, c'è una, insomma, quantomeno una congruenza di risultati con l'Inter di Mancini, ti ricordi quella dei tanti, sì. 1-0 secondo noi sono storie diverse, sei d'accordo? Sì. Cioè, sì. Ma sì, ti ripeto, al di là di quella di Mancini, anche quando vincevamo noi l'88-89, vincevamo il tempo 1-0, squadra magari non bella, in contropiede, un po' con tante cose che si dicono anche adesso, però ripeto, poi le partite cominciano a scorrere, i risultati continuano a venire, l'entusiasmo, la consapevolezza, prendi sempre più fiducia di te, dei tuoi mezzi, e poi può succedere di tutto, perché no, sognare non costa niente, però al di là dei sogni, credo che ci siamo avvicinati molto alle prime due, ecco. Sì, Andrea, attingo anche alla tua breve, non fortunatissima esperienza al Genoa, perché lì c'è un ragazzo su cui sono puntati molti occhi e che addirittura fa sgorgare le lacrime, dal papà e poi anche a lui stesso, Pellegri, anni 16. Sentiamo. Abbiamo beccato, tuo papà quando hai segnato il secondo gol si è messo a piangere, tu probabilmente nell'adrenalina della partita non te ne sei accorto, ma che emozione ti dà veder piangere tuo padre di soddisfazione per suo figlio di 16 anni? No, mio padre nel calcio è la persona che mi ha seguito fin da bambino e... Emozionato oltre lui? No, sì, tranquillo, mio padre comunque... No, sto guardando le immagini di mio padre, sono cose belle. Bella storia, bella storia. Papà che è team manager che piange, il ragazzo che piange, ma intanto impasta due gol. Ed è, mi sembra una cosa importante, interessante, Andrea. No, bellissimo, io ho avuto la fortuna di allenare, ho voluto poco perché era sempre via con la nazionale, però insomma, se non cerca non può vedere le qualità che ha questo ragazzo, poi insomma l'età, la giovanissima età, poi insomma Genoano, il papà, lui, insomma, un ambiente in questo momento che insomma, porta, come diceva nelle interviste prima di Luciano, adesso si spinge molto, si soffia molto su questo ragazzo qui, dagli tempo, però insomma è un ragazzo che io ho avuto la fortuna di allenare, ripeto, ha delle qualità incredibili, una corsa, una forza, una potenza, deve migliorare soprattutto un po' così anche lui, il mister deve migliorare sul tiro in porta, di qua e di là, però ha tutto per fare bene, ecco. Sì, chi ricorda? È una domanda stupida e banale, ma però è chi ricorda? Però ripeto, un giocatore di cioè, ha una facilità di corsa, una frequenza di proprio di passo fisicamente, poi è un bravo ragazzo, cioè voglio di arrivare, poi una famiglia no, fisicamente vicina. Mi sembra già no, fisicamente è formatissimo, sì, sì, forte proprio. Una struttura, gamba, qualità, velocità, insomma, ripeto, un po' tecnicamente deve migliorare, a volte si intestardisce un po', però ha voglia di imparare, voglia di crescere, questo è importante. Senti, vuoi chiedere ancora qualcosa a Mandorlini prima di salutarlo? Che allora, progetti hai, visto? Ah, i progetti, non so, adesso i progetti ci guardiamo intorno, vediamo un po' di partite, ci prepariamo, poi speriamo di essere pronti alla prossima chiamata. Posso fare tanti progetti. Le partite di campionato, qualche squadra, insomma, vediamo, siamo qui, siamo in attesa. Sì. Tra poco facciamo un discorso un po' più generale con Pierpaolo Marino. Ti butto lì un incipit, Andrea. C'è una differenza enorme, la forbice si è allargata tantissimo tra... Sì. Tra le prime della classe, diciamo tra la parte destra e la parte sinistra, tra le prime sei e tutte le altre, è sempre più insostenibile un campionato così. Bah, è insostenibile, sì. Poi mi sono a parlare anche del Verona, mi spiace, l'ho visto male l'altra sera. Un peccato che sono ritrovato la Serie A dopo solo un anno. Così, insomma, a livello tecnico, vedo, insomma, ha fatto poco una squadra. Insomma. Parte, ho visto quello perché insomma sono stato lì tanti anni e ritornare così in Serie A per il Verona come tante almeno altre 5-6 squadre troppa differenza tecnica con le altre società. Grazie Andrea. Ciao Andrea. Niente, ciao, grazie a voi. Ciao, ciao, Luigi, ciao, grazie. Ciao, ciao. Ciao Andrea Mandorlini. Stavo leggendo questa storia abbastanza controversa che arriva dall'Inghilterra. Sai che in Inghilterra c'è questa organizzazione fantastica che è Kick It Out, che è stata la prima, quando proprio in Italia non c'era neanche il pensiero, no, di quello che poteva succedere, anche perché è un campionato molto più chiuso. Kick It Out invece in un paese dove c'è molta più sensibilità contro le discriminazioni combatteva tutte le forme di razzismo in Inghilterra. Adesso il caso più controverso è legato a Lukaku, che come hai sentito è stato oggetto di cori benevoli nelle intenzioni da parte dei tifosi del Manchester United, che ne sottolineano le qualità, diciamo, a 360 gradi a tutto tondo, con una certa ironia. E ciò nonostante, nonostante il fatto che sia un coro a favore, non certamente un coro denigratorio, però c'è un tema da parte dell'associazione antirazzista che parla comunque di parole offensive e discriminatorie. Questo è, insomma, cioè, lì ci vuole anche sensibilità, un nuovo, lettura. È veramente cose. Un nuovo territorio. Devo dire che Piara Power, che è, insomma, la persona che conosco, praticamente è la grande mente di questa organizzazione da tantissimi anni, ha fatto delle cose straordinarie e in Inghilterra sono nettamente più avanti di noi da questo punto di vista. In questo è scenario è un paese di common law, no? Quindi ci vuole anche interpretazione. Sì, sì, delle, no, ma delle cose. È soprattutto un paese a ogni livello di grande attenzione al linguaggio, cioè, certo. Anche nei confronti del sexual harassment, per esempio, cioè di tutte le forme di discriminazione a sfondo sessuale, cose quasi confinanti con la galanteria lì potrebbero essere travisate e considerate. Certo. Quindi c'è una sensibilità, sono molto più avanti di noi da questo punto di vista. E qui la cosa strana è che questo è un coro realmente a favore, chiaro. Non è un coro denigratorio, però indubbiamente allude a degli aspetti che possono essere equivocabili, fraintesi, e comunque. Diciamo. Possono essere considerati discriminatori. Molto interessante. Direi time out, poi Pierpaolo Marino. Molto controverso. Subito dopo l'intervallo, la lotta continua. Tutti convocati. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova. Pantera.it col TH. Vi presenta. Tutti convocati. Allora, Pierluigi Pardo, come anticipato, il direttore Pierpaolo Marino. Ciao Pierpaolo. Come va? Buonasera a tutti, bene. Buonasera a lei. Allora, con te lanciamo un urlo accorato per un campionato un po' migliore. Stavamo dicendo, abbiamo parlato anche prima con Mandorlini, che questa forbice tra le grandi e tutte le altre si è allargata in maniera spagnoleggiante, direi. Anzi, i dati dicono che il campionato italiano supera quello spagnolo. Normalmente quando una grande gioca contro una piccola, adesso sono tre fischi e via, come ha raccontato Pardo l'altra sera in Roma-Verona. Questo è preoccupante per lo spettacolo, per l'equilibrio del campionato, credo anche per voi delle TV, per l'interesse del campionato. Che facciamo? Per Paolo, che facciamo? Sì, eccomi, che facciamo? No, io devo dire, intanto è già tanto che si sia allargata il team delle squadre che lottano in Champions. Però dall'altra parte le soluzioni sono semplici. Bisogna agire sui criteri di ripartizione dei proventi dei diritti televisivi e ispirarsi di più, per esempio, all'Inghilterra. E da questo punto di vista poi bisognerebbe anche che alcune società che salgono dalla B comincino ad investire per rimanerci, perché in realtà ci sono società che spendono meno di quello che ricavano. Ma lì, scusate, c'è quell'aspetto economico, che fare l'ascensore avanti e indietro è economicamente quasi conveniente? È un po' quello il tema? Il tema è che se una squadra che viene dalla B spende, io vedevo la questione della Gazzetta che ha pubblicato la settimana scorsa gli ingaggi dei giocatori, spende molto meno del suo fatturato dei ricavi, qualcuno addirittura ha speso come in B e incassa molto di più, e non è che lì si possa fare molto per renderla competitiva. Quindi ci vorrebbe anche, diciamo così, un migliore studio dell'intercambio fra la Serie A e la Serie B, dello scambio delle squadre, perché è vero che deve, sportivamente, qualunque squadra deve poter approdare in Serie A, però bisognerebbe pure che, e questo mi piace perché sono arrivate delle squadre simpaticissime, delle belle favole da raccontare, però bisognerebbe pure che poi avessero un budget minimo di spesa che permette di fare di allestire delle squadre che poi non retrocedano al girone d'andata, sì, oppure certo. E quindi, come ha fatto, e poi magari a gennaio intervengono come ha fatto il Crotone lo scorso anno, e poi hanno compiuto il miracolo a Crotone, ma quei miracoli lì non si ripetono. No, questo è chiaro, però Pierpaolo, diciamocela tutta, una Serie A a 20 squadre è difficilmente sostenibile. Tu hai ragione, devono investire di più, però campionato a 20 squadre è francamente insostenibile. Ma poi tre retrocessioni secondo me sono un problema, cioè o fai 18 squadre e tre retrocessioni, o fai 20 squadre ma quattro retrocessioni, perché veramente rischi. Adesso, poi l'anno scorso è successa una cosa quasi miracolosa, cioè l'exploit del Crotone e il crollo dell'Empoli che ha portato a un esito veramente incredibile, ma non dimentichiamoci che a febbraio il campionato sembrava chiuso in coda. Quindi secondo me questo è un tema che c'è e che riguarda poi la competitività stessa del nostro calcio. Io non sono per tornare a 18, nel senso che non penso che in un mondo del calcio che va verso il giocare di più la formula sia per forza giocare di meno, però è oggettivo che ci sono tante partite inutili e ci sono tante squadre alle quali basta veramente, cioè che si salvano con l'infradito. Sì, diciamo, certo, chiaro. Io continuo a pensare che un discorso di massimi sistemi, l'ho ripetuto mille volte, campionato europeo, Superlega, e poi campionati nazionali ristrutturati in maniera diversa. Però qui andiamo troppo lontano. Invece voglio rimanere vicino alle squadre che nel cuor stanno, a Pierpaolo Marino, con una domanda biforcuta che riguarda il Napoli e riguarda l'Atalanta. Allora, c'è qualcuno che mi spiega il turnover di Sarri al contrario? Atalanta 3-0 all'Everton, che bello. Sì, diciamo, Sarri ha fatto un turnover, diciamo, poi a fine partita siamo tutti bravissimi a dire che l'ha sbagliato, magari, però io l'unico appunto che mi sento di muovere, premesso che lui deve fare turnover, perché altrimenti il Napoli non ce la farà con 12-13 giocatori a reggere sia per la Champions League che per il campionato e la Coppa Italia. Però un giocatore fisico come Milik io lo alterno con Mertens magari all'ultima delle sette gare in un mese che ha, che è quella in casa diciamo con lo Shakhtar, dove la fisicità di un attaccante può servire per scardinare di più in una partita in casa, mentre fuori casa magari mi gioco le velocità e la capacità, certo, di aggredire gli spazi di Mertens. Poi tanto col Benevento la porti a casa, Pierpaolo. L'avrei fatto magari giocare anche col Benevento. Poi adesso è la Lazio, quindi a me sembra un turnover un po' al contrario quello di Sarri, però insomma avrà fatto lui i suoi conti. Atalanta 3-0 all'Everton del tanto strombazzato calcio inglese. Arrivano qui, bam bam bam, tre schiaffoni. Sì, sì, l'Atalanta ha dato una bella immagine del calcio italiano contro l'Everton, ma d'altronde con l'Atalanta si possono solo che fare belle figure, perché c'ha un allenatore bravo, una società che investe sui settori giovanili con coraggio e con professionalità. Questo storicamente. Storicamente, però ora c'è anche una proprietà forte, solida economicamente, che può reggere anche la competitività a livelli più alti della propria squadra, più un pubblico entusiasta. Io non è stato sottolineato abbastanza quanti bergamaschi fossero alla Reggio Emilia, che è stato un esodo da calcio antico, di quelle trasferte quando non c'erano ancora le partite in diretta. Ma soprattutto posso dire, a me dell'Atalanta, e spero che continui così, è piaciuto l'approccio sia in termini di formazione che in termini di atteggiamento. Cioè la stagione dell'Atalanta, torno al discorso di prima, onestamente è una stagione dove il massimo risultato possibile, non me ne vogliano, è andare in Europa League. Certo, no? Vabbè, perché arrivare, evidente, credo, no? Arrivare fra la prima sette, poi magari arriva quarta, non lo so. Però mi sembra francamente molto più. Quindi dico, mi sembra molto più probabile, molto più interessante vivere da protagonisti questa Europa League, visto che ci sei. E quindi mi aspetto che qualche volta il turnover uno possa fare in campionato, visto che è ovvio che è fondamentale in una stagione nella quale hai tre competizioni con l'Europa League, che è una competizione, lo sappiamo, particolarmente stancante, perché si gioca in posti spesso lontani di giovedì sera. Però l'Europa League deve essere la priorità della stagione Atalanta, che non rischia, e qui i bergamaschi di qui sopra possono toccare ferro, non rischia minimamente di retrocedere, certo, ma non credo possa arrivare in Champions. Quindi sei in Europa League, giocatela alla grande. E mi è piaciuto molto ovviamente come è iniziata. Pierpaolo, hai qualcosa da aggiungere? Sì, che ha ragione Pierluigi, però l'anno scorso l'Atalanta è stata sfortunata, come la mia Udinese del 97-98, è arrivata quarta nell'ultimo anno che ne andavano tre in Champions League, sì, quindi noi con ha perso il treno. No, può arrivare quarta, però onestamente no, ma mi sembra difficile, cioè, dai, no, ma io intendevo dire che è io condivido, Gasperini fa bene a privilegiare la UEFA League, ha fatto anche un discorso di mettere Gomez in panchina in campionato, quindi certo, il discorso Pierluigi, quello che ha chiaro, fatto, no, ma è quello che vorremmo vedere applicato più spesso. Grazie Pierpaolo, ciao a voi. Ciao, ci vediamo per la borsa, torniamo subito. Bene, allora siamo tutti convocati, ma proprio tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta convocati. Che cos'è Dybala in questo momento? Dybala è un grande calciatore, il problema è che Messi non puoi paragonarlo a nessuno, l'unico che un pochettino si può avvicinare è Cristiano Ronaldo, non puoi paragonare un qualcosa di inarrivabile con un grande calciatore. Messi ha fatto le sue storie, le sue cose, le sue giocate, i suoi gol, i suoi palloni. Io voglio avere i miei, fare le mie giocate, avere le mie partite e niente. Siamo due giocatori diversi, lui ha vinto tanto e spero di farlo anch'io. E la solita tiritera Messi Dybala Messi con Cassano ieri sera ospite di Pardo, sì. Ne ha avuto un po' per tutti, l'Inter vince lo scudetto, ha detto molte altre cose, Inter. Sì, no? Devo dire che insomma è sempre abbastanza sorprendente e interessante. No, per esempio su Higuain, ha difeso Higuain in maniera molto, molto precisa. Io un po' lo conosco, un pochetto lo conosco. A lui piacciono i giocatori tecnici, cioè a lui piace... Quindi Higuain è un calciatore che gli piace molto. Ha fatto un discorso molto, molto onesto, sempre molto netto sugli attaccanti di grande livello tecnico e gli attaccanti che sono soprattutto cannonieri. Sì. E in questa seconda categoria, pure insomma, se ha simpatia nell'azzurro, ha messo Icardi. Ed sì, è un ragionamento che ci sta, perché dal punto di vista tecnico è chiaro che Higuain è un'altra cosa. Poi la storia del calcio degli attaccanti puri, quelli che magari non partecipano molto al gioco della squadra, è comunque una storia enorme, perché Pippo Inzaghi, Pippo Inzaghi avrà partecipato poco, ha fatto più di 300 gol in carriera, quindi poi c'è anche questo elemento. No, però molto interessante su Donnarumma, che secondo lui rappresenta il futuro per i prossimi 20 anni in porta anche per la nazionale. Non so se abbiamo delle altre cose da sentire. Comunque so. Sì, abbiamo delle altre cose da sentire, poi le sentiamo. Però, visto che abbiamo Tancredi Palmieri, sì, con cui facciamo un bel giro d'Europa, cominciando dagli scazzi. Facciamolo. Lo scazzo tra bellissimo. Prima pagina oggi dell'Equipe. Neymar e Cavani, il rigore lo tiro io, no, lo tiro io, no, Cavani, no, tu vai via. No, il pallone l'ho portato io. Io vado a chiamare mio cugino. Vado a chiamare a mio cugino. E poi lo tira Cavani. E che fa? Se lo fa parare, complice la traversa. E poi Neymar, che non la prende bene, arrivano gli spogliatoi e ci vuole la polizia. E poi hanno fatto il sacco la sera in campeggio. Guarda, io a inizio anno, tra le tante analisi che venivano fatte sul Paris Saint-Germain, io non tanto il dubbio, però diciamo la cosa che più mi stuzzicava l'analisi era più che altro capire su chi c'era già, non tanto Cavani quanto Emery, perché Emery lo abbiamo conosciuto come triplo vincitore di Coppa UEFA, l'abbiamo conosciuto come asso nascente, però si sa che nella storia del calcio sono due bestie diverse: vincere con chi deve guadagnare tutto e vincere con chi invece ha già uno status. Quindi adesso capiremo il valore vero di Emery. Sì, poi insomma, in una squadra così, Pierluigi, normalmente ci sono delle gerarchie. Sì, ci sono delle gerarchie prima, e ci sono veramente tanti galli, tanti polli. No, polli sembra denigratorio, tanti fenomeni che ovviamente insomma sgomitano, perché sono tutti fortissimi e sono tutti dei vincenti. Mica facile metterli insieme. Non è facile metterli insieme, ed è ovviamente una delle piccole non so aree se di Emery. Dubbio che c'è sulla certo. squadra del genere. No, insomma, è su Emery perché si può convivere divisi, perché ai tempi del triplete dell'Inter è vero che c'era il clan dei brasiliani, c'era il clan degli argentini, però in panchina c'era Mourinho, che era il numero uno nel gestire queste cose qui. Vai da Carletto, torniamo al solito discorso per cui allenare una grande squadra è un mestiere diverso, devi fare il manager di una grande azienda, non devi fare l'allenatore. Senti, invece, altre due cose. In Russia, di nuovo in testa un italiano, di garanzia, no? Dopo Carrera, adesso Mancini in testa con il suo Zenit. In Inghilterra, a proposito di duellanti, a proposito del succitato Mourinho, troviamo in testa, appaiati, nella Premier League con 13 punti. Chi? Loro due. Guardiola Mourinho. Chi vedi meglio, Pier? Io vedo, guarda, devo dire che il decollo del Manchester City in queste tre partite mi ha un po' colpito, nel senso che io non sono un grande fan del City in generale, nel senso che mi sembra una squadra costruita più con i soldi che con le idee, sì, nonostante insomma l'allenatore sia indiscutibile, e però insomma 4-0, 5-0, 6-0, vado a memoria, 15 gol fatti, 0 gol subiti, oltretutto tre partite non semplicissime, perché in mezzo c'era il Liverpool, c'era comunque una trasferta contro il Feyenoord. Mi sembra che il City abbia diciamo una velocità di punta che superiore. Non so se le altre hanno. Non lo so, però lo United sta molto bene, è in crescita. Oggi ti dico City. Oggi mi dici City, a me piace di più lo United per le ragioni di qui sopra, mi sembra più squadra e con grandi giocatori. Non so, il dottor Palmieri sta d'accordo. Sì, devo dirti, tu mi dici Pierre costruito con i soldi, vero che non glieli hanno regalati Lukaku, Pogba, lì di povero non c'è nessuno. Però devo dirti, l'anno scorso il City era partito skyrocketing, anche l'anno scorso, e poi si è spaldato alla lunga. Mi verrebbe strano pensare a Mourinho che per 2 anni consecutivi non la becca, però c'è anche una cosa che ha reclutato più esperienza, credo, Mourinho rispetto a Guardiola. Cioè, se io guardo gli acquisti che ha fatto Guardiola in 2 anni, vedo il futuro del City, anche il presente, ma il futuro. Cioè, dico, cavolo, questi ci possono campare un po' di anni. Sì, però l'anno scorso non l'ha beccata Guardiola, perché alla fine Mourinho dell'argenteria l'ha alzata. Zero titoli per gli altri. Quindi anche l'anno scorso, una stagione pur disgraziata nel complesso per lo United, Mourinho l'ha salvata così. Chiudiamo il giro d'Europa con la Spagna rapidamente. Vai. Perché inaugurato il nuovo stadio dell'Atletico Madrid, molto atteso, il Wanda Metropolitano. Come lo chiamano gli spagnoli, Wanda. Wanda, non Bandanara. Ma c'è il Wanda, c'è il Wanda Metropolitano, eh? Este in Argentina, però. No, es verdad. Pardo es apellido de castellano, Palermo, no, ditemi invece voi che conoscete calcio europeo, il Real Madrid che bam becca dalla panchina l'ennesimo ragazzino della cantera, Borja Mayoral, dicono nuovo Morata, classe 97 1997, gol con il Sociedad. Allora non lo so, è vero che l'anno scorso siamo stati smentiti tutti da Asensio, perché nessuno credo si aspettasse un'esplosione simile di Asensio l'anno scorso. Ed è vero che nessuno, forse più di Zidane, sta davvero incarnando la famosa filosofia dei Galacticos, Zidanes y Pavones, perché non credo che si fosse mai visto un'infornata di... Ma è tramontata quella filosofia lì, mi sembra abbastanza. Lo so, però un'infornata della cantera così impattante, ti dico in spagnolo, in pochi mesi, non si è mai visto, già l'anno scorso, vuol dire. Però secondo me alla lunga la baja, l'uscita di Morata dal Real Madrid la sentiranno. L'anno scorso, tomo cacchio, Morata, se non sbaglio, ha fatto almeno 15 gol, spesso risolvendo partite come i primi 2 pareggi scemi che ha fatto il Real Madrid in campionato, e gol sempre con un minutaggio molto ridotto. Secondo me, alla lunga di 38 partite in campionato, l'assenza di Morata si farà molto sentire. Vedremo, grazie Tancredi. Ciao a voi, adios. Ciao. Rimaniamo in Spagna tra poco. Comunque, 19 presenze a Wolfsburg l'anno scorso. Cioè, stiamo parlando di un ragazzo. A parte che l'ho commentato anche a livello di Youth League 2 anni fa con Real Madrid. Com'è? No, è buono, è un 97, è un giocatore di prospettiva, sai, le qualità ci sono, vale la mozione cutrone, cioè, parliamo di giocatori sicuramente di talento, sicuramente di qualità fisica e anche tecnica, poi ci sono quelli che mantengono le premesse, le promesse, quelli che non le mantengono, ti ricordi il vecchio Portillo, o lo stesso Bojan Krkić, un giocatore che sembrava meglio di Messi, sembrava un crack giovanili, e poi invece poi si è rimenzionato. Ci sono aspetti di carattere psicologico, proprio di maturazione dell'uomo ancora prima del calciatore, che sono decisivi. Sì, ma poi ad esempio, e ne parliamo tra poco, a proposito di 17enni, Doncic, lo sloveno che ha alzato la Coppa Europa, il titolo europeo, anni 17, neanche 18, nemmeno compiuti, ed è già un crack assoluto, gioca nel Real Madrid. Già vi anticipo che dopo il traffico rimaniamo su questo argomento e andiamo in Spagna con un ospite clamoroso. Noi abbiamo bisogno di ognuno di voi. Domenica zero deleghe, tutti convocati. Tutti convocati. Gianluigi Pardo, un ospite clamoroso che conosci bene, che conosci bene anche tu, pur non essendo particolarmente adepto al basket come io sono, però Sergio Scariolo, CT della Spagna, che si è beccata al bronzo, però ti leggo il palmarès, roba da brividi, del signor Sergio Roberto Scariolo. Olimpiadi, un argento, un bronzo, Londra e Rio, europei, 3 medaglie d'oro e una di bronzo. E posso andare avanti con i titoli nazionali, e posso andare avanti a oltranza. Ciao Sergio. Ciao, buongiorno. Ciao, coach. Ciao, ciao, coach. Ciao, ciao. Lasciamo a Pardo la prima domanda. No, l'avevo incontrato negli anni di Madrid, tra che era il 2000 e il 2001. Mi ricordo davanti a quella bacheca incredibile di trionfi del calcio, e non soltanto del calcio, anche del basket. Ti posso fare la prima domanda provinciale sulla nostra nazionale? Che voto dai, che valutazione dai all'esperienza dell'Italia? E perché una nazionale che comunque rispetto a un po' di anni fa ha potenzialmente tanto talento, ha dei giocatori da NBA, non riesce fino in fondo poi a fare il salto di qualità? Ma io darei un 7 sinceramente, perché credo che abbia portato il potenziale al massimo del risultato possibile. Perdere in quarti di finale con la Serbia, vice campione, non mi sembra male. Un risultato, il talento era quello che era, ma mi sembra che a livello di organizzazione, di coesione, di atteggiamento, di carattere siano stati assolutamente impeccabili, per cui credo che poi alla fine, sai, non tutti hanno squadre per poter ogni anno arrivare a vincere le medaglie, e molti di quelli che ce l'hanno non le vincono, tra l'altro, come Francia e Lituania, perché sono andate a casa alla stessa altezza di dell'Italia, forse anche prima, e onestamente avranno un potenziale molto superiore. Senti Sergio, la tua Spagna che voto dai? Ma direi un 9, sinceramente, con tutti gli infortuni, le assenze. Siamo trovati in un momento in cui 8 giocatori, un momento no, la prima giornata del campionato, 8 giocatori dei 12 che avevano portato ai giochi olimpici un anno fa erano fuori. Quindi con molta gente debuttante, con pochissima esperienza internazionale, anche con molta poca proprio qualità, al massimo livello. Poi naturalmente avevamo anche noi i nostri 3-4 giocatori NBA, certo, che hanno fatto bene, sì, però onestamente siamo felicissimi perché vincere un'altra medaglia, 9 medaglie su 10 negli ultimi 10 europei, un qualcosa di tremendo. 9 medaglie. Senti, il movimento non soltanto cestistico, ma proprio sportivo spagnolo, insomma, è decollato dopo le Olimpiadi di Barcellona nel 92, no? Da quel momento in poi, negli ultimi 25 anni, la Spagna è stata una cosa completamente diversa in termini di qualità degli uomini e anche poi di personalità e capacità di giocare le grandi partite, che forse si lega alla qualità, insomma. Però gli spagnoli, per esempio nel calcio ma anche nel basket, avevano un'immagine di una squadra anche buona, ma perdente, molto divertente, ma perdente. Tu che vivi da dentro, prima come allenatore di club e poi della nazionale, qual è il segreto del movimento sportivo spagnolo? Ma ci sono diversi fattori che sicuramente aiutano, poi non so quale possa essere il segreto, la S maiuscola. Sicuramente la diffusione dello sport nelle scuole crea non solo una base di praticanti enorme in tutti gli sport, ma anche una cultura sportiva di gente che poi diventa tifoso, spettatore, però con una certa educazione sportiva, una certa qualità di osservazione dello spettacolo sportivo, questo da una parte, e dall'altra senz'altro gli impianti sportivi, cioè qui c'è una diffusione, una di tutti i tipi, dai piccoli impianti di quartiere fino ai grandissimi palazzi dello sport, cioè da questo punto di vista realmente una privilegiata, e io credo che anche questo onestamente abbia il suo peso, perché sia per le famiglie nel portare, certo, i ragazzi, certo, sia per le famiglie per, diciamo, per andare a vedere le partite eccetera, essere in impianti confortevoli e belli è senz'altro un plus, ecco. Ma tu arrivi da qua, sei stato qua non molti anni fa, quando facciamo questi discorsi a me viene in mente quello che c'è a 200 metri dalla redazione del Sole 24 Ore, cioè il Palalido, che è ancora lì, non hanno ancora messo per terra un pallone, quindi guarda, mi ricordo, siamo in Italia, italiano. Portavo mio figlio all'allenamento, allora iniziava un po' a giocare, c'era una palestra e con un grandissimo sforzo da parte di questa piccola società che mi ricordo era la Soul Basket di Milano. E con tanta passione, tanta voglia, però c'erano due allenamenti dove doveva andare una palestra dove c'erano le colonne praticamente quasi in mezzo al campo, Milano, una città come questa. Quindi se io vedo Malaga, che è una città tre volte più piccola di Milano, cioè, un impianto così probabilmente non verrebbe neanche offerto ho messo a disposizione di società di pallacanestro, perché non danno l'omologazione, i migliori per poterli dare. Ma chiaro. Sì. Sergio, un'ultima cosa, rapidamente, doppio incarico, Sacchetti, Cremona, nazionale italiana, tu hai scelto di fare CT a tempo pieno, sei favorevole o contrario? Ma dipende dalla prospettiva, onestamente io dal punto di vista di una società farei fatica, se fossi un presidente di società farei fatica, dico la verità, a concedere questa opportunità al mio allenatore, perché vorrei averlo sempre al 100% sul pezzo, soprattutto in estate, che è una fase di mercato, una fase di contatti con i giocatori, convincerli, viaggiare per vederli, eccetera, eccetera. Dal punto di vista nazionale, credo che sia viceversa un vantaggio, perché risparmiano soldi, certo, hanno in questo modo la possibilità di accedere a un mercato ampio di allenatori, diciamo, certo, di livello, quindi dipende dalla prospettiva da cui lo vedi. Grazie Sergio, buon lavoro. Ciao Sergio Scariolo, Pierluigi Pardo, ti saluto. Vado a Bologna. Sì, lo so. Vado a Bologna a fare il telefono, Bologna Inter. Ma il telefono caricalo, mettilo sotto carica. Domani. Domani telefono, ma sì. O vieni. Vediamo. Domani c'è una cosa bellissima, che è un grande evento di presentazione delle iniziative dello sport paralimpico con il ministro, con Zanardi, che presenterà tutti i ragazzi della squadra. Uh-huh. Una cosa molto bella in stazione centrale a Milano dalle 11.30 in poi. Faccio un salto lì, poi veniamo qua insieme. Grazie. Dai. Grazie per Luigi Pardo, Giorgio Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronati, regia. Ciao a tutti. Oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Saluti!